Tra le righe. Letture, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Quando ci si ritrova a conversare con un linguista come Stefano Baltezzaghi, le domande da fargli proliferano di secondo in secondo. Ma se si deve fare i conti con il poco tempo a disposizione, si deve lasciare che siano alcune ad arrivare gioiosamente alla meta. In occasione dell'uscita del suo ultimo libro, Come dire, Galateo della comunicazione, pubblicato da Mondadori, il professore Baltezzaghi ci ha concesso un'intensa, seppur breve, intervista. Vi auguro buon ascolto e alla prossima. Ciao! Le interviste di Tra le righe. Buonasera, benvenuti a Tra le righe. Oggi abbiamo al telefono il professore Stefano Baltezzaghi e presentiamo con lui il suo ultimo libro, Come dire, Galateo della comunicazione. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, in questo libro lei fa una riflessione sulla lingua italiana, scorrazzando in maniera appassionata e divertente in diversi territori, da quello musicale a quello delle email, da quello medico a quello della ristorazione. Si può davvero dire che ce n'è per tutti e ci sarebbe da parlarne per ore. Tra i vari capitoli io ho notato, ho rilevato una sorta di filo conduttore, cioè l'esagerazione. Lei scrive, ad esempio, a proposito di canzoni, che un noto cantautore italiano non canta, ma esclama. Non pensa che sia un po' una tendenza generale quella di non dire, non parlare, ma di esclamare? Beh, sì, un po' c'è questo aspetto. Io ho notato che appunto in molti di questi dei fenomeni che perlomeno che mi incuriosiscono c'è un denominatore comune che è proprio la ricerca appunto dell'esagerazione. E questo appunto può avvenire per esempio con dei toni di voce, a volte con l'ortografia, perché appunto mettiamo tanti punti esclamativi o enfatizziamo mettendo molte vocali che sono sinonimo o di canto quando si scrive oppure anche di urlo, no? O l'uso delle maiuscole, così come invece fenomeni come i superlativi, l'uso di prefissi come stra, mega, ecco, tutte cose che messe vicine fanno vedere che il nostro problema è quello di fare notare il nostro messaggio, e per farlo lo dobbiamo sottolineare in questi modi anche un po' artificiali. Sì, la cosa si nota anche nel linguaggio pubblicitario. Una volta si poteva arrivare al detersivo che più bianco non si può, no? Era anche ingenuo. Oggi si assiste ad un linguaggio mutuato dalla poesia, dalla prosa, dalle favole. Non so, penso che lei sappia che c'è lo shampoo a lieto fine o l'ammorbidente che seduce. Cioè, perché un prodotto che deve detergere o profumare sembra quasi dare una promessa di felicità? Perché questo linguaggio? Ma questo però, secondo me, è sempre stato così. Questo vuol funzionamento della pubblicità non è quello di convincerci, ma di ipnotizzarci, quindi di associare delle cose gradevoli a un prodotto, anche se magari appunto non c'è nessuna relazione logica e razionale tra le due cose, ma è proprio una suggestione. Quindi appunto è sempre stato così il linguaggio pubblicitario, soltanto che ora, cioè una volta appunto pensiamo alla pubblicità televisiva, c'era soltanto Carosello, adesso invece gli spazi si sono moltiplicati enormemente, oltretutto sono anche magari spazi di per esempio televisioni locali, quindi con un ridotto budget, un ridotto bacino di utenza potenziale, e quindi a quel punto per spiccare se ne dicono veramente di tutti i colori, ma è più un fenomeno quantitativo che qualitativo. La grande quantità fa, come purtroppo nel caso meteorologico delle alluvioni, cambia poi la qualità, ecco perché appunto per esagerare bisogna sempre arrivare su dei limiti, cercare di forzare i limiti. La lingua è chiaramente una forma vivente, no? Si evolve, si modifica, si arricchisce, ma la sensazione che ho io da lettrice o anche quando parlo con alcune persone è che attualmente la lingua parlata si sia un po' impoverita. Si può ricondurre questo anche al fatto che non siamo più abituati a memorizzare nulla? Ma io questo non lo so, non so se sia proprio una questione di memoria o quanto di. Io ci vedo soprattutto un fenomeno di informalità. Noi parliamo, diciamo, sempre di più e scriviamo anche molto, molto di più di una volta e ci facciamo meno problemi. Quindi cerchiamo anche per pigrizia, forse, per velocità, perché ci sovrapponiamo quando parliamo uno sull'altro, cerchiamo sempre, prendiamo sempre la prima cosa che ci viene in mente, che non scegliamo l'espressione e quindi ci accontentiamo della prima, della versione più disponibile, anche se magari è un po' banale. Uno degli ultimi neologismi, lo leggevo nei giorni scorsi, è ipadizzato. Ma professore, forse le faccio una domanda sciocca. È proprio necessario introdurre e ratificare sempre dei neologismi? Che un po', non lo so, questo ipadizzato mi sa un po' di forzatura. Non possiamo fare in modo che alcune parole abbiano una vita come un po' le meteore, che vadano e via. L'unico modo che abbiamo è non ripeterlo, perché appunto chi registra poi i neologismi si basa sull'uso, sulla frequenza, sull'osservazione. Ci sono moltissime parole che vengono coniate e poi non diventano neologismi perché non vengono accettati, non vengono ripetuti. E questo appunto è una cosa che capita tutti i giorni. In altri casi invece vengono ripetuti. Proprio oggi mi sono capitati sott'occhio due segnalazioni, insomma, di lettori di due parole bruttissime uscite su giornali anche importanti. Una è efficientare e l'altra è disdettare, nel senso di disdire un contratto su giornali importanti in grande evidenza. Questi lettori sono parole molto brutte, però io per vecchio riflesso, la prima cosa che ho fatto è stato andare sullo Zingarelli. Sono entrambe registrate, disdettare dal efficientare dal 1990, disdettare addirittura dal 1956. Quindi è una questione di gusti. Infatti il mio libro è un galateo, non è una grammatica. È un galateo perché uno dice, cioè, uno si può, appunto, nessuno proibisce di andare a fare un esame universitario con le ciabatte infradito, però ci sono delle cose che lo sconsigliano, ecco. E io più che la proibizione secondo me la lingua migliorerà quando avremo più gusto, sarà più diffuso un gusto per appunto la scelta delle parole. A proposito di diffusione, è vero che il passato remoto è molto più diffuso al sud che al nord Italia adesso? Beh, penso non solo adesso, penso che sia proprio una tendenza storica questa del passato remoto, le cui cause. Immagino che chi ha studiato bene la questione, cioè ci possa essere anche qualche ipotesi sulle cause, ma tradizionalmente il passato remoto al nord Italia è raro e marca contesti di quasi di ipercorrettismo, insomma, per dirla chiara, uno lo usa quando se lo vuole tirare, si direbbe, mentre invece appunto nel sud Italia è anche, cioè, diciamo, correttamente è anche una possibilità espressiva in più, perché è anche insomma, anche una funzione del pastore remoto, ma qui non è avvertito non come un modo per stabilire appunto il passato, no, aspettualmente già perfetto, già compiuto come dovrebbe essere, ma per connotare un po' di ricercatezza anche eccessiva nel linguaggio. Sì, le faccio un'ultima domanda, capisco che lei è impegnatissimo. Negli anni Ottanta il gap linguistico tra adolescenti e adulti era significativo. Io ero adolescente negli anni Ottanta, ricordo bene. I ragazzi parlavano nel loro gergo e gli adulti erano un po' distaccati da questo. Oggi sembra che questa distanza si sia un po' colmata, ma è davvero un bene? Perché lei parla del linguaggio giovanilistico, no? Di questi adulti che vogliono parlare un po' come i giovani, come i ragazzi. Eh beh sì, una volta a un certo punto si cessava di essere giovani, adesso non si cessa mai di essere giovani, persino certi ottantenni a volte, perché appunto quando non si è più giovani si diventa giovanili, se non si è neanche giovanili comunque si è giovanilisti, perché si pretenderebbe di esserlo, e chiaramente mentre i segni corporei sono più difficili da mascherare, ma sappiamo che ci sono intere industrie che vivono di questo desiderio di mascheramento, i segni linguistici sono i più facili da imitare, quindi appunto da usi come il turpiloquio, usi molto così disinvolti nella costruzione anche sintattica, i gerghi, ecco, chi appunto i cinquantenni di oggi, per dire il caso che mi riguarda, non hanno smesso di usare gerghi giovanili che usavano 30 anni fa, perché appunto si cerca di evitare di dare segni della propria età, si cerca di dimostrare meno anni, ed è appunto un fenomeno che si riscontra su tutto, appunto sul modo di vestirsi, sul modo di apparire, sul modo di comportarsi, e appunto il linguaggio tutto è gratis, e quindi è anche la cosa su cui si fa meno fatica. Professore, io la ringrazio e le dico che questo suo libro non è carino ma è bello, e soprattutto non è utile ma è molto utile. quindi grazie mille. Grazie a lei e buon molto lavoro. Gentile. Buon lavoro. Anche a voi. Arrivederci. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.